Ecco, allora adesso diamo la parola al professore ed amico Roger, che rende l'ultima delle relazioni concernenti gli interessi e i criteri agiografici del vescovo Inderbach. Abbiamo tutto il tempo poi anche per la discussione e poi per la chiusura del convegno. Prego. Grazie. A mo' di introduzione porto lo sguardo su quella lapide tombale del vescovo Inderbach, che è anche riprodotta sulla locandina e sui programmi. Su questa lapide tombale si leggono incisi ben 7 santi: San Giovanni Evangelista e Santa Elisabetta di Turingia nel fregio della pianeta, Sant'Andrea e San Giacomo messi a decorazione della mitra, San Vigilio e San Giovanni Battista, che sono collocati tra i racemi della zona superiore, e infine nel riccio del pastorale, il più difficile da interpretare, è il vescovo San Remigio di Reims, contraddistinto dalla Saint-Ampoule, dalla Santa Ampolla del Crisma, che fa parte della sua tradizione iconografica. Anche nella tavola che abbiamo visto ieri col ritratto dell'Inderbach del Museo Diocesano, che conserva il ritratto dell'Inderbach, accanto alla Vergine col bambino si vedono altri santi, tutti significativi: da un lato gli apostoli Pietro e Paolo, i titolari della chiesa di San Pietro, dall'altro il precursore San Giovanni e il dottore San Girolamo, che certo ha un riferimento agli umanisti. Sono dati monumentali che bastano da soli a documentare l'interesse vivissimo del vescovo Inderbach nel campo della agiografia. Il primo capitolo di questa mia esposizione lo riassumo assai, ed è quello che parte dall'esame dei calendari. Dei molti calendari, sono almeno 5 calendari abbondantemente annotati dall'Inderbach, sono stati anche citati più volte, adesso non sto a ricordarli qui singolarmente, vero? Che costituiscono un primo sguardo, ci offrono un primo sguardo, vero, sul mondo dei santi e il rapporto che Inderbach ha con questi, e direi che alla fine converrebbe di nuovo tornare ai calendari per poter leggere le molte aggiunte relative ai santi, vero, sulla base di quello che si è potuto riflettere nel settore agiografia. Ma ecco, qui mi limito al massimo per schematizzare quello che mi sembra da rilevare dai calendari già da un primo esame. Ecco, intanto si notano in queste aggiunte Inderbach ai vari calendari una serie di integrazioni di luogo. Con una certa pedanteria aggiunge a molti santi che magari stanno già nel calendario il luogo dove essi si trovano, dove hanno vissuto, dove sono sepolti. Per quanto riguarda i santi romani, anche il luogo minuto sul Capitolio, sulla via verso San Lorenzo, eccetera, eccetera. E rilevo che sono non indicazioni di luogo, semplicemente così riprese da vecchi martirologi senza chiedersi dov'è quel luogo, ma si nota un certo istinto realistico di verificare geograficamente quel luogo, dove si trova, in quale nazione, insomma a che città corrisponde l'indicazione. Riscontri topografici concreti. Seconda categoria di aggiunte è quella che specifica tante volte la titolatura, la qualifica del santo. E anche qui non si tratta solo di qualifiche convenzionali liturgiche, come quelle che ricorrono e sono di prammatica, martire, confessore, dottore, eccetera, ma sono tante volte indicazioni che vanno al di là della pura terminologia liturgica, indicando la condizione biografica o professionale che riguarda il santo. Elena è la madre dell'imperatore Costantino, San scolastica, è sorella di San Benedetto Trudberto, è fratello di San Ruperto, eccetera. Gertrude è figlia del re Pipino e così via. Ecco, la terza gamma di aggiunte riguarda poi l'aggiunta di l'addizione di santi stessi. Molti nomi di santi vengono aggiunti che nei vari calendari ancora non ci sono, e il Hindenburg va riempiendo le molte righe ancora vuote dei calendari con l'aggiunta di un numero foltissimo di santi. Direi che quella tendenza che i calendari e anche un po' la liturgia ha avuto dal tardo Medioevo verso un proliferare anche eccessivo delle feste dei santi, al punto da mettere invece in sottordine lo schema fondamentale dell'anno liturgico, qui è in pieno rigoglio. Nei due calendari, quello di Monaco, quello conservato alla Biblioteca di Monaco, e quello edito dal Bonelli, sono dai 120 ai 140 i santi aggiunti nell'anno, su 365 giorni mi sembra già parecchio. Ecco, circa i criteri con cui questi santi sono stati aggiunti non mi soffermo qui, anche perché abbiamo sentito dalla professoressa Walsh già una serie di indicazioni circa le preferenze, perché e per quali motivi, con quali criteri queste aggiunte di altri santi il Hindenburg lo ha operato. Ma mi chiedo, a conclusione di questo capitolo, semplicemente quale funzione più precisa assumevano i calendari così ampiamente rimaneggiati nella mentalità e nella vita del Hindenburg. Non c'è dubbio che essi conservano la loro funzione liturgica. Basta accertarlo al fatto che la catalogazione dei santi rimane assegnata a determinati giorni, quelli appunto della celebrazione liturgica della loro festa. Ma è anche altrettanto evidente che tante e tante annotazioni potrebbero essere considerate pleonastiche a questo fine ed esprimono piuttosto uno stato permanente di ricerca, volta invece a una conoscenza più estesa della figura del santo e del suo culto. È difficile immaginare che tutti i santi qui iscritti vengano richiamati ai fini di una vera e propria celebrazione, a meno che non si voglia intendere celebrazione la pura menzione martirologica, la pura lettura del martirologio. L'elenco scandito dal calendario viene ad assumere contemporaneamente in larga misura il carattere di un indice di nomi e di dati biografici che servono da richiamo alla conoscenza erudita. Naturalmente si tratta di un richiamo non freddamente scientifico, di un ricordo che è anche devoto, e così nel calendario si inseriscono i nomi dei santi più familiari come Santa Elisabetta di Marburg o Santa Edvige di Slesia, che ricorda il nome della nonna del Hindenburg. Ecco, e qui così siamo sulla linea di una progressiva personalizzazione dei calendari che conduce anche ad una sistematica registrazione biografica del nostro autore, che per noi è particolarmente preziosa. In questi stessi calendari che si segnano le varie ricorrenze personali, ovvero gli anniversari delle persone di famiglia e così via. E basti per quanto riguarda il capitolo grosso per sé dei calendari, e che merita un esame molto più esteso. Secondo capitolo lo intitolo L'orizzonte agiografico del Vescovo Hindenburg. I calendari dunque consentono un primo sguardo panoramico su quello che fu il mondo agiografico presente al Vescovo Hindenburg e quello che fu anche l'indirizzo della sua ricerca. Una conoscenza molto più ampia dei quelli che furono i suoi metodi e le sue prospettive, lo fornisce un esame, sia pure sommario, del materiale da lui consultato e una lettura delle numerose note che proprio sulla tematica agiografica egli è andato disseminando sui manoscritti e incunaboli da lui studiati. L'ingente materiale bibliografico da lui utilizzato in questo settore comprende, a mio avviso, due categorie che vanno tenute distinte, descritte. da un lato scritti propriamente liturgici, libri rituali, dall'altro scritti letterari agiografici. Per sé sono due tipi di scritti nettamente diversi. Alla prima categoria, libri liturgici, appartengono messali e breviari, dei quali qui ricordo solo i principali: un breviario di provenienza passaviese, il 1556 della Biblioteca Comunale, un messale di origine salisburghese, il 1562 della stessa biblioteca, e un messale di impronta augustana, 1718 della stessa biblioteca. Manoscritti questi provenienti dall'area germanica e probabilmente importati dal Hinderbach come suo patrimonio personale. A questi vanno aggiunti però lo splendido Breviarium Secundum Consuetudinem Curie Romane, che era stato scritto per la Chiesa di Trento verso il 1370, dunque di provenienza a sud delle Alpi, con le splendide miniature di Niccolò di Giacomo, Biblioteca Comunale 1563, materialmente conservato al castello oggi. E poi il Breviario Francescano, scritto personalmente e posseduto dal vescovo suffraganeo Giovanni, vescovo di Tino e Micono, ausiliare suffraganeo del vescovo Alessandro di Masovia, francescano, dunque che possedette e scrisse questo volume nella prima metà del secolo, volume che però fu dal Hinderbach più tardi acquistato dal guardiano del convento di San Bernardino, dice lui, pro usu nostro ne veniret in manibus extraneorum, perché non andasse a finire in mano estranee. No, si vede che i frati stavano disfacendosi di questo prezioso documento, che è molto francescano in tutta l'impostazione. Va infine ricordato anche il breviario a stampa, di cui è stato detto nella apertura della mostra, posseduto dal Hinderbach, l'incunabolo 354 della Comunale. Questi libri, come ho detto, contengono principalmente testi eucologici, antifone, responsorie, sequenze, come pure svariate indicazioni rituali sulle modalità della celebrazione. Elementi tutti questi, degnissimi di un'indagine più ampia, e c'è un mio carissimo discepolo, Don Fortunato Turrini, che sta occupandosi di tutto questo settore, vero, di produzione liturgica trentina, è molto interessante, però non è l'oggetto diretto di questo studio. L'attenzione nostra anche a questi libri liturgici in questo momento è dedita alla agiografia. Dunque noi faremo attenzione in questa prospettiva alla massa di dati relativi alla vita e al culto di santi che si localizzano qui, soprattutto nelle letture dell'ufficio. Vengo alla seconda serie di scritti che non sono nati per la celebrazione, ma per la lettura personale e devota o tendenti alla informazione erudita. Nel caso nostro il principale, quello che fa la parte del leone, è la Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine, e in seconda quello scritto enciclopedico, quella specie di lexicum universale che è molto letto per quei tempi, che è lo Speculum Historiale di Vincenzo di Beauvais. Quest'ultimo venne usato dal Hinderbach nella splendida edizione incunabola che è presente alla Comunale, e l'esemplare utilizzato è molto idoneo anche perché nei suoi larghi margini può ospitare molte postille. Per quanto riguarda la Leggenda Aurea, la Lombarda, come egli spesso la chiama e la cita, la Lombarda è chiamata, noi possediamo tre manoscritti che furono suoi. Il manoscritto 1664 del secolo XIV, trecentesco, arricchito dunque della Comunale sempre, arricchito con vite di santi passaviesi, salisburghesi, germanici e trentini, dunque una leggenda aurea rimpolpata con diversi santi successivi, compresi i santi trentini. Un secondo manoscritto meno importante, anche perché è frammentario, ma il più interessante di questi tre manoscritti inderbacchiani della leggenda aurea, quello con cui ebbe più familiarità, è quello del doppio volume che egli ebbe in eredità da Enrico di Langenstein, fa parte della eredità di casa, ed è segnato con note marginali dello stesso autore, e corrisponde ai due numeri della manoscritti della comunale oggi 1790 e 1789. Nella numerazione sono stati invertiti, prima viene il 90 nella disposizione del libro. Ecco, accanto a questi testi agiografici più largamente utilizzati, il Hinderbach ha anche a sua disposizione alcuni passionali di vecchio tipo. I testi citati, vedete, sono del 300 e del 400, ma ha a sua disposizione anche alcuni testi più antichi, che sono i seguenti. Un passionale bresciano del secolo XII, che egli aveva sequestrato a un ebreo nel 1470. Un altro testo del secolo XIII che proviene dalla chiesa di Gurk in Carinzia e figura da lui annotato dopo il 1472. Ed infine un Liber Antiquissimus Legendarum de Sanctis che ancora oggi è presente ed appartiene alla Biblioteca Capitolare di Trento, che era stato recuperato e restaurato dal canonico Ambrogio Slaspek nel 1476. Nella loro impostazione queste raccolte più antiche, che vorrei fossero sottolineate nell'attenzione, perché corrispondono nella loro struttura a quella forma dell'ufficiatura che è più antica, in cui solo nelle feste notevoli dei santi si leggeva d'un fiato, in un'unica lettura, tutta la passio di un santo. Mentre invece la moda invalsa dal secolo XIV in poi amava ritagliare i testi per la lettura dell'ufficio in 3, 6 o 9 pericopi a seconda del grado di solennità, ed è ovviamente questo il quadro mentale entro cui il nostro autore opera, per cui vediamo spesso che su questi testi lui fa le divisioni in vista di una utilizzazione liturgica. Non sono casuali queste indicazioni, perché ci aiutano a entrare un po' nella situazione, nel Sitzimleben, nell'impiego, nella funzione di questi testi. Ecco, volendo ora approfondire un po' di più il metodo di lavoro e la mentalità agiografica del vescovo Hinderbach, dobbiamo estendere un attimo lo sguardo ulteriormente sul panorama delle sue fonti, suo corredo di fonti ulteriori per lo studio dell'argomento. Per prima cosa dobbiamo riscontrare una lacuna inattesa. L'opera agiografica del domenicano trentino Bartolomeo di Trento, quell'Epilogus Invitis Sanctorum, compilato verso il 1240, che precorre la nascita della famosa leggenda aurea, è rimasto ignoto al Hinderbach. Basti per ora segnalare il fatto sul quale occorrerà tornare più avanti. Invece una citazione frequente che ricorre spesso nelle sue postille è quella che fa riferimento ai libri liturgici romani, i Novis Breviariis Romanis, in breviariis novis impressis, in legendario romano, eccetera. Ma non manca anche di citare ed allegare il breviario di Passau o il mattutinale pataviense quando essi presentano materiale più abbondante. Non dimentichiamo che Passavia, anche se tanto lontana da Vienna, è la sede diocesana dell'ambiente viennese. La diocesi, l'alveo diocesano in cui Hinderbach è cresciuto, è Passau, non Salisburgo o d'altro, perciò una certa preferenza passaviense in questo, pienamente spiegato. Se poi andiamo fuori dalla cerchia dei libri liturgici, le citazioni più frequenti si riferiscono agli scritti di storia romana. Qui non sempre si precisa il nome degli autori, per cui molte volte bisognerebbe indagare ulteriormente, caso per caso, per trovare quella che è la fonte precisa a cui egli si riferisce. Gli autori più citati nominativamente sono Eutropio e Ammiano Marcellino. Più volte compare citata anche in seguito la Historia Langobardorum di Paolo Diacono, della quale c'è un esempio segnato dal Hinderbach ancora oggi nella biblioteca comunale. Certamente utilizzato fu anche il Chronicum de Origine Francorum di Echehardo Daura, pur esso segnato da una postilla Hinderbach. E poi abbiamo sentito anche più volte ricordare Flavio Biondo, che il Hinderbach ricorda anche in rapporto alla geografia. Venendo agli autori e agli scrittori ecclesiastici, il più citato è San Girolamo col De Viris Illustribus e la Vita Pauli. Di Eusebio si ricordano le cronache, De Temporibus e il Transitus Beati Hieronymi. Per Sant'Antonio Abate allega infine Evagrio. Direi che sostanzialmente con questo si conchiude il raggio informativo che si riscontra nelle note Hinderbach. Allora, l'intento che Hinderbach segue nella utilizzazione di questo materiale. L'intento che più evidentemente appare è quello di aumentare il volume delle conoscenze. La notazione che più frequente ricorre in margine ai codici è questa: hic deficit aliquid de historia, ec legenda est incompleta, o altre espressioni che rinviano all'altro codice o l'altro dei testi menzionati atto a integrare le notizie. E ritende così a creare un conguaglio che operi come la somma dei dati desunti dalle varie provenienze. Ed è questa, principalmente, la via che fa lievitare il numero stesso dei santi, molti dei quali vengono a integrare il calendario non per motivi particolari di devozione personale o di aderenza alle consuetudini locali, ma per una semplice osmosi letteraria che porta al confronto fra i vari testi utilizzati. Arricchire la conoscenza con tutto ciò che si può leggere a proposito dei singoli santi sembra sia stato effettivamente l'interesse preminente di questo instancabile raccoglitore, che ha lasciato sui margini dei codici persino le tracce della candela verdastra usata nelle lunghe veglie notturne. Ma si osserva come molte postille con cui egli va chiosando le sue letture non hanno neanche pretesa erudita. Sono osservazioni spontanee di carattere ascetico, morale, volgar letterario o etimologico, oppure talvolta colgono solo l'occasione per appiccicarvi una reminiscenza biografica o un riferimento di cronaca, molto interessante per i dati di cronaca, ma meno interessante per la geografia. Volentieri egli connota che la leggenda pulcra est et eleganti stilo comparata, o che presenta una pulcra historia et admiranda, oppure raccomanda di leggere una determinata storia che a multum pulcra e devota existit. E con intensa attenzione egli contrassegna in margine parole e formule di preghiera che la leggenda pone sulla bocca dei santi o dei loro cultori e che esprimono devozione particolarmente intensa. Dunque, l'interesse erudito non è l'unico e supremo ispiratore delle postille. Ciò vale soprattutto se noi lo misuriamo col nostro concetto di erudizione. Tuttavia bisogna anche dire che non è assente da queste annotazioni l'istanza critica. L'autore è costretto a svilupparla già dalle discrepanze che egli va riscontrando tra i vari testi che parlano dello stesso santo e che difficilmente si lasciano armonizzare fra loro. potrei citare alcuni esempi, come il caso agiografico di San Quirico e Giulitta, o gli intricati problemi che si collegano al nome di San Quirino, che è già stato toccato. Quanti Quirini ci sono, come si districano tra di loro. E così per San Cipriano egli accetta il testo di Vincenzo di Beauvais, distinto a sua volta, desunto a sua volta dai viri desviris illustribus di Girolamo, e lo conferma col testo di una omilia di San Gregorio. Parlando di San Zeno di Verona, opta per la qualità di confessor, attestata dalla leggenda aurea, rigettando invece la qualifica di martir, che è pure attestata, senza che egli lo ricordi, nei dialoghi di San Gregorio Magno. Interrogativi critici egli apre, per esempio, a proposito del sangue di Cristo venerato a Mantova, o a proposito della testa di San Giovanni Battista venerata a Roma in San Silvestro in Capite. Un vaglio più sistematico viene applicato nei casi in cui i contenuti della leggenda si lasciano mettere a confronto con i dati della storia romana. Qui il giudizio del Hinderbach appare più deciso, tanto che egli non esita a censurare talvolta perfino la leggenda come suspetta ed apografica, usando talora anche il termine di apocrifa, che del resto si trova già presso Vincenzo di Beauvais. Con riferimento ai nomi degli imperatori menzionati nelle varie passiones, egli cerca di correggere la cronologia e di rettificare altri errori evidenti. Presi insieme, gli atteggiamenti descritti comprovano certo nella mentalità di Giovanni Hinderbach la presenza effettiva di un certo senso critico, magari semplice e rudimentale, ma pur valido e saldo. Contemporaneamente però si lasciano subito intravedere anche quelli che sono i limiti del suo sforzo critico. Nessuno vorrà certo far carico a un erudito del 400 se non ha ravvisato ancora l'inconsistenza delle cosiddette falsificazioni di Lorch, alle quali il Hinderbach mostra di credere fermamente quando si riferisce a San Massimiliano di Celeia e ad altri santi preferiti della chiesa di Passavia. Più riservato è il nostro giudizio quando si vede come, a proposito di San Severino, l'apostolo del Norico, egli si vale della Historia Langobardorum e del Breviario Passaviense, ma ignora la fondamentale biografia di Eugipio. Per San Cipriano segue il profilo che Vincenzo di Beauvais ha ricavato dal De Viris Illustribus di Girolamo, ma non si accorge per niente della importanza grandissima degli acta proconsularia che pur li stavano a disposizione nel passionale di Brescia. Anche le martiri cartaginesi Perpetua e Felicita sono da lui conosciute solo nei termini riportati dalla Lombarda. Per una volta egli si lascia sfuggire anche un'osservazione che basterebbe da sola a relativizzare le sue ambizioni critiche. A proposito delle storie mirabolanti che la leggenda aurea narra sulla fine dell'imperatore Valeriano nella passione di Ippolito, egli osserva candidamente: «Istud est historiis romanis contrarium, tamen pie credendum». Come si vede, l'indagine consente di effettuare una visita abbastanza accurata a quello che fu il laboratorio agiografico del vescovo Hinderbach. Molto più in là nella ricerca sarà difficile andare, perché non abbiamo davanti, come nel caso tipico di uno scrittore, un'attività finalizzata in modo univoco alla compilazione di un'opera letteraria, la quale, una volta realizzata, diventa essa stessa lo specchio più fedele delle intenzioni dell'autore. Come si è visto, la finalità del lavoro agiografico del Hinderbach non si concreta nella creazione di un nuovo libro. Essa consegue piuttosto a un personale bisogno di sapere e di documentare il proprio sapere, a un'ansia erudita che è come fine a se stessa. Per altro verso, essa cerca di rispondere alle esigenze di chi celebra quotidianamente nella preghiera la memoria dei santi e sente il bisogno di pregare coscientemente, con attenzione al senso delle formule e dei testi. Tanto più che colui che prega è, nel caso, un vescovo, conscio di esercitare un'azione guida sulla preghiera pubblica della sua chiesa, in modo speciale su quella della cattedrale. Per una volta egli menziona tra le sue fonti il lezionario della chiesa cattedrale. Può darsi che si tratti di un libro più antico, oggi non conservato. Sta il fatto però che in quei medesimi anni il capitolo cattedrale andava riordinando tutta la compagine delle letture dell'anno liturgico, quelle bibliche e patristiche nel ciclo temporale, come quelle agiografiche del santorale. Il lavoro è condensato nei tre grandi volumi del lezionario capitolare, che si affiancano ai monumentali antifonari del coro, di cui 3 per la messa e 6 per l'ufficio, che il capitolo cattedrale faceva confezionare in quegli stessi anni. Il vescovo Hinderbach ha certo avuto tra mano il lavoro e vi ha lasciato l'impronta di qualche sporadica nota. Da un primo esame ancora sommario del contenuto, non ci sembra di poter affermare che esso rappresenti in modo puro e semplice il frutto caratteristico del laboratorio agiografico Hinderbach quale da noi sopra descritto. Occorrerebbe comunque analizzare ancora in modo molto più completo quelle che sono le provenienze immediate dei singoli testi agiografici assunti nel lezionario capitolare e il criterio con cui essi furono utilizzati. Dalle osservazioni sin qui raccolte sembra di poter dire che la compilazione del lezionario capitolare è fatta con criterio meno miscellaneo e composito di quello da noi riscontrato più sopra, e che essa comporta una utilizzazione molto più larga del Liber Antiquissimus di cui si è parlato. La diversità di impostazione può spiegarsi ammettendo come determinante l'opera di altri compilatori. Se invece si volesse attribuire il lavoro alle ispirazioni personali del Hinderbach, allora bisogna portarsi comunque a un'epoca posteriore al 1476, epoca del recupero e del restauro ad opera del canonico Ambrogio Slaspek. E in tal caso si deve registrare una evoluzione dei criteri applicati in sede definitiva rispetto a quelli che si riscontrano nella fase precedente di ricerca. A noi tocca per ora lasciare il problema aperto. Notiamo come esso solleva anche il quesito di una datazione più articolata delle varie postille Hinderbach, che non si possono considerare coeve solo per il fatto che si trovano annotate nello stesso libro, ma segnano anch'esse un progresso di conoscenza nel quale l'antico lettore si trovava egli stesso immerso, e profiterei dell'occasione per suggerire che se in non domani, come si spera, come vorrei augurare, si potesse procedere a una edizione più o meno completa di queste postille, molto interessanti per molti versi, si cerchi anche per quanto possibile di fissare qualche criterio di datazione delle singole postille, perché non sono tutte dello stesso tempo, perché stanno sulla stessa pagina. Da quanto esposto si può vedere come lo sforzo agiografico del vescovo Hinderbach partecipa ai primi albori di una ricerca umanistica sui santi, ma ancora in modo molto confuso e incerto. Egli vive in un'epoca in cui stanno appena formandosi le basi della ricerca agiografica del Rinascimento. Un'opera come quella del Mombrizius, che stava nascendo in quei medesimi anni, presenta già una fisionomia molto più evoluta in tal senso. Essa si presenta ormai sciolta dalla struttura liturgica dell'ufficio e privilegia decisamente i testi dei passionali più antichi, assunti con maggior senso di rispetto della loro struttura letteraria. Passo infine all'ultimo capitolo, che forse ai trentini può interessare di più, ovvero il rapporto o l'attività del Hindenburg rispetto ai santi trentini, anche se cerco di sintetizzare al massimo, perché ai molti non trentini può anche riuscire pesante questo discorso e poi il tempo ci incalza. Ho già accennato al fatto che il Hindenburg e con lui tutto il suo entourage trentino ignorano l'opera agiografica di Bartolomeo da Trento. Di questo fatto paradossale, di cui darò ragione nelle note, ma si possono dare varie spiegazioni. Certo è che esso segna una frattura gravissima tra le conoscenze agiografiche che l'ambiente trentino possedeva ancora nella prima metà del secolo XIII e quelle che sono proprie del Hindenburg e dell'era successiva fino a noi. La continuità tra prima e poi corre, anch'essa molto assottigliata, sul filo della pratica liturgica, piuttosto che sulla trasmissione di una vera e propria cultura agiografica. L'albo dei santi trentini celebrato in tutta la diocesi al tempo del Hindenburg comprende solo le quattro ricorrenze del patrono San Vigilio, 26 giugno, dei martiri di Anaunia, 29 maggio, di Santa Massenza, 30 aprile, e di San Romedio, 15 gennaio. Si omette quindi il beato Adelpreto, morto nel 1172, del quale in quel tempo era scomparsa perfino la memoria liturgica. Tant'è vero che il Hindenburg lo ricorda solo nel catalogo dei vescovi, ma non a proposito dei santi, osservando lì che abetur pro beato. Per parte nostra, qui tralasciamo anche il piccolo Simone, del quale si è ragionato a parte. Circa il patrono diocesano San Vigilio, il Hindenburg porta con sé da Passavia alcune convinzioni proprie di quell'ambiente locale. A Passavia, infatti, si celebra la festa di San Vigilio al 31 di gennaio e si è convinti di possedere il suo corpo, o almeno la reliquia del capo, trasferito colà insieme alle reliquie di San Valentino al tempo del re Longobardo Autari o del duca di Baviera Garibaldo o Tassilone. La discrepanza dunque tra la festa trentina del 26 giugno e quella passaviese del 31 gennaio viene attribuita alla traslazione dal Hindenburg. Come vescovo di Trento, il Hindenburg sa molto bene che la sua cattedrale possiede la reliquia del braccio di San Vigilio, custodita nel famoso reliquiario, e si sente anche in dovere di adoperarsi per un riscatto delle reliquie del patrono conservate a Passavia, tentativo che non è riuscito. Ignora invece l'esistenza delle reliquie vigiliane contenute nell'alveo dell'altar maggiore della sua cattedrale, le quali verranno scoperte solo nel 1619, quando lo stesso altare verrà smontato per portarlo più avanti sul piano elevato dello stesso presbiterio. Bisogna anche dire che il vecchio altare di San Vigilio, costituito dall'antica arca marmorea collocata a rovescio sotto la mensa, fu guardato abbastanza superficialmente dal nostro, se egli, anziché leggervi l'epigrafe Suspicit Atletas, eccetera, che ancora oggi vi si può leggere scolpita, vi lesse invece l'epigramma Sante Vigili Dum Juvenili, eccetera, che egli desumeva dai fogli in pergamena che recano l'elenco dei vescovi. Questo ho dovuto rettificarlo in quanto ho detto nel primo volume dei Monumenta Liturgica. Ha visto male qui Hindenburg. Degli scritti di San Vigilio, cioè delle due lettere a Simpliciano e a San Giovanni Crisostomo, il Hindenburg non dimostra di aver conoscenza diretta, limitandosi a quanto ne può sapere dal De Viris Illustribus di Girolamo. Anche la Passio più antica di San Vigilio, nella sua versione più antica, quale si trova nei passionali del secolo IX della Biblioteca Capitolare di Verona e della Stiftsbibliothek di St. Gallen, non fu a sua conoscenza. In suo luogo egli utilizzò uno stralcio di leggenda, privo della narrazione del martirio, che si trova iscritto nel breviario passaviense al 31 gennaio e il testo registrato negli additamenti dell'esemplare più antico della leggenda aurea. Come proveniente dall'ambiente trentino, egli utilizzò quel testo della leggenda, ripartito in 9 letture, che si conservava su una membrana, su una pergamena, annessa a un breviario in 8º, oggi non più rintracciabile, ma visto ancora dal Bonelli che lo pubblicò nel secolo XVIII. Il Hindelbach ricopiò questo testo di proprio pugno nei primi e ultimi fogli dell'attuale manoscritto 1718 della Biblioteca Comunale, con alcune sue chiose e ritocchi. Egli non sembra aver particolarmente apprezzato il testo contenuto nello splendido breviario miniato di Niccolò di Giacomo, di cui ho già parlato, che nel suo tenore letterale più di tutti si avvicina al dettato dell'antica Passio. Siccome in questo testo il racconto s'arresta prima di arrivare al martirio, il Hindelbach lo considera come declassato perché è historia in multis deficit. L'ambiente trentino gli offriva inoltre un testo più ampio, articolato in 9 letture, che si trova trascritto nel supplemento del breviario del vescovo ausiliare Giovanni, che ho già ricordato, il 1777, e che successivamente, questo diventa poi fondamentale per la tradizione successiva, verrà ripreso quasi per intero nelle pagine del lezionario capitolare. Questo è dunque il preferito. Il Hindelbach lo commenta e sviluppa soprattutto una sua propria esegesi dell'ultima pericope, dove si narra il miracolo della vittoria strepitosa sugli Alani ottenuta dall'imperatore con l'aiuto degli atti del martire San Vigilio precedentemente inviati al Romano Pontefice. Qui si dilunga nelle note a commentare quest'ultimo episodio e tutto ciò che vi si connette, però sentiamo come il commento procede. Il pontefice di cui si parla, quello che avrebbe ricevuto le reliquie e gli atti del martirio di San Vigilio, sarebbe Papa Siriccio, 384-399, San Vigilio è morto nel 400, la cui morte in realtà viene a cadere prima della morte di San Vigilio. L'imperatore di cui qui si parla, che dunque ha conseguito vittoria con le reliquie di San Vigilio, è Teodosio, morto nel 395. E la battaglia è quella capeggiata da Eugenio e da Arbogasto, cioè la battaglia sul Frigido, che cade nel 394. L'intera storia viene ancora ripresa ed amplificata in una lunga nota posta sui margini dello speculum historiale, dove si pretende addirittura di identificare il luogo di quella battaglia che gli storici conoscono molto bene. Ma l'indicazione viene portata a Matarello, a sud di Trento, facendo coincidere l'indicazione ad Aquas Frigidas con il toponimo tuttora vigente dell'Acquaviva. E la nota sa ancora aggiungere che dopo da allora ben 13 imperatori nel recarsi a combattere contro pagana e barbara gente portarono per cui, in seguito a questi e ad altri miracoli, sarebbe stato Teodosio colui che conferì alla Chiesa di Trento la contea della Valle Lagarina con i diritti comitali su Orsenigo, nonché il vessillo dell'Aquila Nera, penso che il padre Ghetta non sia del tutto d'accordo, testimone di quella insigne vittoria. La nota conclude infine enumerando le successive donazioni alla Chiesa di Trento ad opera di Carlo Magno, di Enrico II, e di Corrado II, un bel concentrato di agiografia politica ad uso del Principato Vescovile Trentino. Nel caso dei tre martiri Sisinio, Martirio e Alessandro, trucidati nell'attuale Val di Non, a Naunia, il 29 maggio del 327, il Hindelbach aveva davanti a sé un esempio ideale di culto antico, con valore fondante per la Chiesa locale e con raggio di espansione universale. unici tra i santi trentini, essi vengono ricordati anche nello speculum historiale, che compendiando il racconto di Paolino nella vita Ambrosi, così scrive: «Hoc tempore, dunque in questo tempo in Italia, Sisinio, Martirio e Alessandro furono martirizzati dai gentili. Quando i loro corpi vennero portati a Milano, un cieco fu guarito da loro e dichiarò di essere stato indirizzato colà da Sant'Ambrogio, che diceva di essere stato socio consorte di questi martiri». Prontamente qui il Hinderbach annota che, a proposito dei corpi santi, deve trattarsi di una pars eorum reliquiae, una parte delle loro reliquie, perché, prosegue, busta eorum, i loro resti bruciati, San Vigilio li ha raccolti e li ha trasferiti a Trento, dove ancora si conservano le ossa. È da credersi infatti che egli abbia mandato solo una parte di reliquie a San Simpliciano, successore di Sant'Ambrogio, al quale mandò una lettera sulla passione dei santi, di questi martiri che furono a noi inviati da Milano, greci e capadoci, com'erano, di cui il primo, Sisinio, da Vigilio fu ordinato archidiaconum in Illa Valle, fu fatto poi arcidiacono in quella valle, il secondo lettore, il terzo ostiario della chiesa di Anaunia, sui quali una lettera menzionata da Girolamo nel De Viris Illustribus spiega più ampiamente. Ecco, con ciò egli riassumeva tutto ciò che gli era noto per via letteraria a proposito dei tre santi, salvo il titolo di archidiaconus con cui Hinderbach gratifica San Sisinio. Il testo a cui egli attinse è quello che più tardi tra noi è noto col nome di Acta Maiora dei martiri anauniesi, un testo del secolo XI proveniente da area milanese, nel quale la narrazione è tutta intessuta di espressioni riprese dalla lettera di San Vigilio a San Giovanni Crisostomo. Una copia di questo testo, postillata a mano del Hinderbach, è riportata nel supplemento del breviario del suffraganeo Giovanni. Una seconda copia, successiva con qualche variante, è ripresa nel lezionario capitolare. Ignoto invece rimane anche qui il testo di Bartolomeo da Trento. Rispetto al contenuto delle due lettere vigiliane e al tenore della Passio, cioè quelli che chiamo i documenti più vicini ai fatti, tutte le fonti allegate, compreso questa Acta Maiora, disattendono la traslazione dei corpi santi a Trento e asseriscono invece l'esistenza di una basilica in loro memoria sul luogo del loro apostolato e del loro martirio, che sempre in questa gamma di fonti viene chiamato col nome di Metol o Meclo. Ora sembra provato abbastanza seriamente che quel toponimo si usava al tempo del Hinderbach anche per indicare il paese di San Zeno, per cui non era cosa del tutto gratuita congetturare a proposito dell'antica pieve di San Sisinio una qualche relazione con i tre santi. Ma qui all'indagine sui codici doveva aggiungersi la ricerca archeologica. Purtroppo non è facile dire con tutta esattezza che cosa rinvennero il Hinderbach e i suoi collaboratori quando, sul posto dell'attuale santuario di San Zeno, nella primavera del 1472 fu demolita la vecchia chiesa parrocchiale. Nel leggere il rogito notarile che egli fece stendere con l'occasione e gli altri documenti coevi che ne parlano, conviene distinguere molto bene quelli che furono materialmente i reperti e quella che fu invece l'interpretazione che si dette ai reperti in quella occasione e poi da altri anche più tardi. Nessun reperto materiale risulta indicato che si presenti come un resto della ipotetica basilica paleocristiana dell'epoca vigiliana. Abbastanza chiaro è invece il rinvenimento di un piccolo loculo coperto da lastra marmorea situato sotto il vecchio altare. Quando esso fu aperto, alla presenza del vescovo e di altri ecclesiastici, il 26 agosto 1472, fu rinvenuto in esso quadam capsella argentea, una cassetta, una scatola argentea, in qua recondita fuerunt, quedam ossa prefactorum santorum, in cui erano contenute certe ossa dei suddetti martiri, capsella che si trovava dentro il loculo, inter cineres, tra le ceneri. Mentre in seguito la piccola lipsanoteca d'argento prese altra via e scomparve, le ceneri invece, col residuo contenuto del loculo, furono risigillate per ordine del vescovo e successivamente trasferite nell'arca marmorea da lui commissionata, in cui ancora oggi si conservano dopo una duplice traslazione del monumento. Nel 1895 il contenuto fu ancora una volta ispezionato e risultò composto di un ammasso terroso che, esaminato da vicino, si presenta come un miscuglio di minuti carboni e cenere scolorata con del terriccio, alcuni piccoli ciottoli e qualche frammento di calcinaccio. L'operazione venne integrata dal vescovo Hinderbach con la solenne consacrazione del presbiterio della nuova chiesa che andava sorgendo, effettuata il 15 novembre. Come abbiamo visto, egli non era del tutto ignaro dell'antica tradizione dei corpi santi a Trento, testimoniata nel 1145. Venerata dopo di allora come la madre di San Vigilio, polarizzava su di sé al tempo del Hinderbach l'indice maggiore di gradimento da parte della devozione popolare. Se è vero, come il Bonelli sostiene, che il Hinderbach non prese visione del sacramentario udarriciano, non possiamo attenderci che egli ponga il problema critico a proposito di questa santa, che nel sacramentario, redatto quando ancora le sue reliquie dimoravano sulle sponde del lago da lei denominato, viene annoverata come martire e vergine, mentre invece nel sacramentario adelpretiano, che è successivo alla sua traslazione nella Basilica Vigiliana, viene classificato come madre di San Vigilio. I testi della leggenda usati dal Hinderbach sono, in questo caso, pur senza citarne l'autore, quelli di Bartolomeo da Trento, in una duplice versione, una longior e una brevior. È interessante che la longior dice un particolare di più circa il luogo dove essa fu tumulata dal vescovo Altemanno, nella cripta del Duomo in Ara Occidentali. E i recenti scavi hanno dimostrato che questa è l'ubicazione rigorosamente esatta, vista la configurazione della cripta nell'antica basilica vigiliana. Il Hinderbach però aveva davanti a sé la disposizione molto diversa della cripta dugentesca, e perciò si permetteva di correggere il testo ponendo in Ara Orientali. Ci resta San Romedio, l'eremita di Anaunia. La fonte narrativa più antica che ne parla è Bartolomeo da Trento, che gli dedica un inciso nella vita di San Vigilio, Inter Ec, Romedius, eccetera, e una leggenda più ampia collocata al primo di ottobre, Remedius Vir Nobilis. Hinderbach ignora anche in questo caso i testi di Bartolomeo e si serve di una narrazione molto amplificata che si trova iscritta nel supplemento del breviario del suffraganeo Giovanni. Per i santi trentini in realtà è la fonte più diretta. Anche in questo caso il testo è praticamente identico a quello che verrà riportato nel lezionario capitolare. Esso coincide con quello che nell'edizione Bavaria Sancta si dice proveniente dal monastero di Hohenwart e che a sua volta sta alla base di due altre vite ulteriormente sviluppate che fissano definitivamente nella tradizione popolare la figura di San Romedio. Il sacramentario adelpretiano porta segnato con mano del secolo XII la festa di San Romedio al 1° di ottobre, e tale è la data registrata come il Dies Obitus da Bartolomeo da Trento e dall'ufficiatura di San Georgenberg. Questa era la data vigente per la cattedrale e per la diocesi, quando il sacramentario suddetto era ancora in proprietà e in uso della Basilica Vigiliana. Dopo il trasferimento del codice nell'eremo di Val di Non, operatosi intorno al 1230, una mano più tardiva di almeno un secolo segnava nel calendario la nuova memoria del 15 gennaio, desunta probabilmente da consuetudini strettamente locali. Il vescovo Hinderbach non trascura di riportare la memoria romediana del 15 di gennaio anche negli altri vari calendari da lui annotati, classifica la festa del 1° ottobre come translatio. I documenti più antichi la chiamano Obitus, lui a suo tempo la chiama traslatio. Dal santuario di San Romedio, Eli aveva prelevato nel 1470 una porzione di reliquie donandole all'abbazia di San Georgenberg presso Schwaz. 2 anni più tardi, Eli faceva restaurare la basilica, dico tra virgolette perché si tratta del piccolo locale in vertice alla roccia, e vi faceva erigere un nuovo altare addossato alla parete contrapposta al santuario vero e proprio, cioè sul lato settentrionale di quel vano. Detto altare egli fece consacrare, presumibilmente in sua presenza, dal vescovo suffraganeo Alberto da Tridino all'indomani della solenne consacrazione della Basilica dei Martiri in San Zeno, da lui operata il 15 novembre 1472. E questo altare fu dedicato a San Romigio, a San Remigio e ad altri santi, creando così nel santuario di San Romedio un posto per il santo vescovo di Reims, che sino allora era ricordato solo nel calendario in coincidenza con San Romedio il 1° di ottobre. Siccome anche l'ortografia ha una sua importanza, rileveremo come il Hinderbach usa normalmente nelle sue note ancora la vecchia denominazione di Remedius. Era già in uso però, prima di lui, anche la forma Romedius, che da quel tempo in poi diventa usuale. È noto, infine, come il vescovo Hinderbach eseguì interventi di restauro anche in quello che al suo tempo continuava a chiamarsi col vecchio nome di Palatium Episcopatus a Trento, l'attuale palazzo pretorio adiacente alla cattedrale. Nei lavori del 1964 è venuta in luce una bella testimonianza di questi restauri, dei restauri da lui eseguiti nella cappella palatina di San Biagio, cioè una lapide dell'anno 1486 recante il suo stemma e la parola del Salmo 117 a Domino factum est istut. La cappella, dopo quella data, ricorda sempre meno i vecchi titolari che sono i santi Biagio e Lucia. E invece più tardi risulta provvista di un altare dedicato a San Romedio, fatto come, cito il Mariani, un atrio a cuppola sostenuto da 4 colonne di marmo con in fronte a lettere d'oro il distico Reliquia sfovet ara sacram Romedius aram, vos dominum in sanctis mirificum colite. Nessuno ci saprà dire esattamente da quando il campanile dugentesco, rifatto dal vescovo Federico Vanga per la Cappella Palatina, oggi in via Mazzini, abbia cominciato a chiamarsi nel linguaggio popolare dei trentini il campaniletto di San Romedio. Se si osserva però come la leggenda della campanella, che suona miracolosamente alla morte del santo, sonum tintinnabuli cappelle tue per sé et a sé sonantis, è patrimonio tipico di quella vita di San Romedio che emerge al tempo del Hinderbach e non si trova nelle vite precedenti, si potranno forse ricavare altre indicazioni per capirlo. Vi risparmio la conclusione. Per quanto riguarda i santi locali, dico, siamo a un punto nodale della geografia trentina, e che va assolutamente tenuto presente per una eventuale revisione. Occorre fare i conti con quello di buono e di limitato che ci poteva essere perché ha influito sul quadro successivo. Ecco, per il resto, nel campo generale dell'agiografia, credo che le conclusioni loro stessi saranno tutti in grado di trarle. Prego. Ecco, il professor Roger ci ha immessi anche in questo mondo fatto contemporaneamente di santi e anche di codici e anche di erudizione, è riuscito anche ad alleggerire le cose in modo tale che anche quella parte direttamente vero, legata ad annotazioni o ad altro è stato possibile seguirla nelle note e si completerà ulteriormente. E non perdo altro tempo perché